un incantesimo impossibile. C'era una volta, c'era un re che era molto amato dal suo popolo e anche lui amava tutti carolosamente. Aveva sempre vissuto felicemente, ma era sempre stato completamente contrario all'idea di sposarsi e non aveva mai nemmeno provato il minimo desiderio di innamorarsi. I suoi sudditi però lo supplicavano di sposarsi e alla fine promise loro di provare a farlo. Decise quindi di partire per un viaggio nella speranza di incontrare la donna della sua vita. Così partì alla ricerca dell'amore, assistito da un solo ciambellano, il quale, sebbene non molto intelligente, aveva un gran buon senso. Il re esplorò diversi paesi, facendo tutto il possibile per innamorarsi, ma invano. Alla fine di 2 anni di viaggio, decise di tornare verso casa. All'improvviso, sentirono uno stridulo miagolio. Il terribile rumore si avvicinò, finché non videro un centinaio di enormi gatti spagnoli correre tra gli alberi. Correvano insieme, vicini, e correvano tutti nella stessa direzione. Erano inseguiti da 2 enormi scimmie in abiti viola a cavallo di 2 mastini inglesi che strombazzavano 2 trombette giocattolo. «Sono un'enorme scimmia in abito viola a cavallo di un mastino inglese!» Erano poi seguiti da 20 o più gnomi a cavallo di lupi e gatti, tutti vestiti con seta viola come le scimmie. Il re e il suo ciambellano rimasero perplessi nel vedere una scena così insolita. Un attimo dopo, apparve una bellissima giovane donna a cavallo di una tigre. Una volta posati gli occhi su di lei, il re rimase incantato. Il suo cuore era andato. «Chi era quella incredibile bellezza?» Con sua grande gioia, vide che uno dei nani era rimasto indietro rispetto agli altri. «Chi era quella donna che cavalcava la tigre?» «La principessa Mutinosa!» «La figlia del re di questo regno! Lei è molto appassionata di caccia e adesso sta cercando dei conigli!» «Come si raggiunge la corte di questo re? Veloce, ora!» Raggiunse la capitale in un paio d'ore. Si presentò immediatamente al re e alla regina. Quando disse il suo nome e quello del suo regno, fu accolto a braccia aperte. «Congratulazioni per una caccia di successo, principessa!» Lei non disse una parola. A volte sembrava che stesse per parlare, ma ogni volta suo padre o sua madre prendevano subito la parola al suo posto. «Lei è così adorabile! Hai mai visto una bellezza del genere nella tua vita? Perché sei irritato? Sicuramente la principessa è abbastanza bella!» «Certamente! Ma per essere felice nell'amore è necessario qualcosa di più della bellezza. A dire la verità, la sua espressione è difficile da capire!» «Non ha senso! Questo è solo orgoglio e dignità, e non c'è altro!» «Penso che le attenzioni prese affinché non parli siano sospette!» Le osservazioni del ciambellano erano piene di buon senso, ma questo tipo di opposizione aumenta solo l'amore nei cuori degli uomini. Il giorno dopo, implorò la mano della principessa Mutinosa. Gli venne concessa a 2 condizioni. La prima era che il matrimonio avvenisse il giorno seguente. La seconda, che non doveva parlare alla principessa finché non fosse divenuta sua moglie. Nonostante le obiezioni del suo ciambellano, accettò. E la prima parola che sentì pronunciare dalla sua sposa fu: «Sì!» Lei parlò al loro matrimonio. Le paure del ciambellano si dimostrarono molto vere. La giovane regina era resa spiacevole a tutta la sua corte con dispetto e cattiveria. Un giorno, mentre era fuori, incontrò una povera vecchia che camminava lungo la strada, che fece una riverenza e poi proseguì. Ma la regina gridò: «Non sai che io sono la regina? Come osi non fare la riverenza?» «Signora, Non ho mai imparato come misurare le riverenze, ma non voglio certo fallire nel dimostrarvi rispetto. Lei osa rispondere? Legala al mio cavallo e io la porterò subito dal miglior maestro di ballo della città per imparare come fare una riverenza. Sono protetta dalle fate! Sono protetta dalle fate! Legala! Bene, ma sei stata avvertita! Ma quando la regina incitò il suo cavallo, questo non si mosse. Invano lo spronò, ma questo diventò di bronzo. Che cosa diavolo succede? Donna cattiva, indegna della tua corona, ho voluto giudicare da sola e tutto quello che ho sentito dire di te era vero. Ora non ho alcun dubbio su questo e vedrai se le fate devono essere derise. Placida raccontò alla regina delle fate quello che era accaduto con Mutinosa e la regina delle fate propose di trasformare Mutinosa in bronzo. Placida, tuttavia, che era educata e gentile, chiese una condanna più mite. Così fu stabilito che Mutinosa sarebbe diventata la sua schiava a vita, a meno che avesse avuto un figlio che avrebbe preso il suo posto. Dovresti essere la mia serva. Ma dato che sei cresciuta regalmente, il cambiamento potrebbe essere troppo grande per te. Perciò ti ordino soltanto di spazzare le mie stanze e di lavare il mio cagnolino. Mutinosa diede alla luce una graziosa bambina. E quando si fu ripresa, la fata le diede una bella lezione per la sua vita passata. Le fece promettere di comportarsi meglio e la rimandò dal re. Placida si dedicò completamente alla piccola principessa. Pensò a quale delle fate avrebbe dovuto chiedere di essere le madrine per ottenere il miglior regalo. Alla fine scelse due fate gentili. Che decisero di fare tutto il possibile per lei. La chiamarono Graziella. Sapete, care sorelle, che la nostra punizione più tipica è quella di trasformare la bellezza in bruttezza, l'intelligenza in stupidità o di trasformare completamente la forma di una persona. Penso che il miglior piano sia che una di voi le dia la bellezza, un'altra l'intelligenza, mentre io mi impegnerò affinché non possa mai essere trasformata in altra forma. Le due madrine acconsentirono. E non appena la piccola principessa ricevette i loro doni, se ne andarono. Placida si dedicò all'educazione della bambina. E riuscì bene. E la piccola Graziella divenne così bella che, quando era ancora bambina, la sua fama si diffuse all'estero, anche troppo. Un giorno, Placida fu sorpresa da una visita della regina delle fate. Ho sentito e sono rimasta sorpresa da come hai trattato Mutinosa. L'hai trattata molto dolcemente rispetto a come lei ha trattato te. E io vengo per far pagare i suoi torti a sua figlia. Hai fatto in modo che crescesse bella e intelligente e che non le si potesse cambiare forma. La metterò in una prigione incantata. E lei non se ne andrà mai finché non si ritroverà tra le braccia di qualcuno che ama. Sarà mio dovere assicurare che non accada mai. Quando era quasi cresciuta, Graziella non era solo molto abile. Era una ragazza molto dolce. Bonetta, vieni a vedere. Cosa potrebbe essere? Deve essere un tritone. Un uomo, hai detto? Sbrighiamoci per vederlo da vicino. Portava un cesto di vimini, pieno di conchiglie rare, che diede alla principessa. Che creatura dall'aspetto terribile! Spero che tutti gli uomini non siano come lui. No, certo. Graziella accettò educatamente alcuni regali che lui le aveva portato. Dopo quella volta, lui tornò ogni sera, suonava la conchiglia o faceva il buffone sotto la finestra della principessa. Lei si limitava a fargli un inchino dal balcone, ma non scendeva mai fino all'ingresso. Perché questa torre è il posto giusto per noi? Perché non possiamo vivere completamente senza acqua. Bonetta li invitò a entrare e si accomodarono al piano inferiore, che era stato completamente riempito d'acqua. Senza dubbio, signora, hai rinunciato a vivere sulla terra per sfuggire alla folla di amanti. Ma mio fratello sta già morendo d'amore per te. La principessa, a quel punto, raccontò tutta la sua storia alla sirena, che si dimostrò davvero dispiaciuta per lei. Forse un giorno riuscirei a trovare una soluzione a tutti i tuoi problemi. Oserei dire che non sono così orribili come il primo. Non saremo così terribilmente sole. Povera me, quanto sono fiduciosi, giovani. Ma cosa ne pensi dell'amante che hai ammagliato? Non potrei mai amarlo, ma potrebbero esserci utili a qualcosa. La sirena tornava spesso. Ogni volta parlava dell'amore di suo fratello e ogni volta Graziella parlava del suo desiderio di fuggire dalla prigione. Dopo aver brevemente parlato, Graziella acconsentì a mostrarle l'interno della torre. Bonetta rimase in basso con la sirena. Essendo un artista molto abile, Bonetta dipinse l'immagine di un bel giovanotto, con dei bei capelli ricci, una carnagione delicata e bellissimi occhi azzurri. Quando ebbe finito, lo mostrò a Graziella. Non riesco a credere che ci possa essere un uomo così bello al mondo. Ma suppongo che non lo vedrò mai, quindi a che serve? Oh, cara, quanto sono infelice! Ora, questo principe aveva sentito parlare della torre incantata ed era determinato ad avvicinarsi il più possibile. Ma l'equipaggio lo riteneva troppo pericoloso e il suo capitano protestò. Ci condurrai a morte certa. Porta l'ancora sulla terraferma. E poi cercherò una fata gentile che è sempre stata molto buona con me. Il principe attraccò nel punto più vicino e mandò via il capitano per chiedere consiglio e aiuto alla fata. Ho sentito parlare di questo. Manderò un fidato piccione per verificare se c'è qualche punto debole per intrufolarci. Bella principessa, ti adoro e ti prego di accettare il mio cuore e di credere che non ci sia nulla che non farò per mettere fine alle tue disgrazie. Arthur. Dici di amarmi, ma non posso prometterti di amarti senza averti visto. Mandami il tuo ritratto con questo messaggero. Se te lo restituirò, dovrai rinunciare alla speranza. Ma se lo terrò, lo saprai. Graziella. Dopo un'ora di riposo, il fidato uccellino fu rimandato indietro, portando il ritratto del principe. Ora, non perdiamo più tempo. Posso renderti felice solo trasformandoti in un uccello. Ma mi prenderò cura di restituirti la tua forma al momento giusto. Bacia, bacia, uccellino! La principessa era stanca, così si sdraiò su una panca. Nello stesso istante, l'incantesimo si spezzò e la torre cominciò ad oscillare e a dividersi. Bonetta si affrettò verso l'alto in modo che potesse almeno perire con la sua cara principessa. Proprio come lei, la fata gentile arrivò insieme alla fata placida in una macchina fatta di vetro veneziano guidata da 6 aquile. Vieni via velocemente, la torre sta per crollare! Vennero a sapere che la regina mutinosa era morta alcuni anni prima ma il suo gentile marito, re James, viveva ancora pacificamente, governando bene e felicemente il suo paese. Accolse sua figlia con grande gioia. Tutti gioirono immensamente per il ritorno della bella principessa. Il loro matrimonio ebbe luogo il giorno successivo e per molti giorni seguenti balli, cene, tornei, concerti e ogni genere di divertimento andarono avanti tutto il giorno e tutta la notte. Il principe e la principessa vissero felici e contenti.